ascoltando Rock FM. Signore e signori, ho il piacere di annunciarvi che sono le 8. Ciao passerottino. Ciao passerottina che hai sintonizzato la radio sveglia su Rock FM. C'è una nuova giornata pronta ad accoglierti fra le sue braccia. E noi qui, da Pane, Burro e Rock and Roll, abbiamo deciso di farti innamorare di un brano per tutta questa settimana. Sì, sì, fino a venerdì. Oltre agli uccellini ci sarà anche Here Come the Sun. Loro sono i Beatles. Adesso sì che possiamo augurarvi una buona giornata. Ripeto, fino a venerdì, per farvi innamorare delle giornate che stanno nascendo e anche di noi, perché no? Sì, c'è sempre bisogno di amore anche qui negli studi di Via Locatelli 1. Il sole splenderà, speriamo, anche per Monique, gruppo d'ascolto in fila ai semafori di Via Gello dietro camion di rifiuti. Prospettasi giornata di guamo, speriamo di aver coperto il puzzo con Here Comes the Sun. Qui Cisco, anche lui ci dà il bentornato. Sto leggendo sms ricevuti al 335 100 7777 che testimoniano l'affetto là fuori. Saluti ancora ad altri amici che non sono ancora andati a letto, ma il sole splende anche per loro. E richiesta di strombazzata da parte di Pimpa da Genova per, in realtà, l'amica Jessica, che oggi è al test d'ingresso a medicina. Ne approfitto per strombazzare Jessica, ma per strombazzare anche tutti gli amici e le amiche alle prese con i tanto temuti test d'ingresso. Mister Trombetta funziona. Ragazzi, state in una botte di ferro. Someone that I knew. Oh, what will it us from the heart. I couldn't love you any better. I love you just the way you are. Talk to. I want you just the way you Non è un martedì qualsiasi quello che stiamo vivendo insieme sulle frequenze di Rock FM, non lo è perché con noi c'è Roberto Fricantoni che oggi esordisce con un compleanno in famiglia, amici. Andiamo con i compleanni del giorno. Ma naturalmente ottima andiamo scelta. Con l'almanacco che riguarda i compleanni del giorno. Chi nacque? Nacque, dicevo, è una specie di compleanno in famiglia, un ritratto di famiglia. Nacque Amadeus nel 1962, appunto il 4 di settembre. Il conduttore televisivo. Naturalmente, il conduttore televisivo e anche il conduttore radiofonico italiano, che salutiamo, un collega che salutiamo cordialmente, e anche a lui inviamo il solito messaggio. Ci fosse bisogno. Ci fosse un posticino. Siamo sempre pronti. Siamo sempre pronti. Va bene. Passiamo ai compleanni del metallo. Del nasceva metallo. Nel 1970 il 4 settembre Igor. Igor. Non lo so, quindi dipende dalle pronunce, anglosassone o latina. Latina in questo caso, cito, ha ragione. Quale gobba? L'ha capita? Lo so. Ma questo Frankenstein Junior. Questo è Igor o Igor Cavalera. Cavalera, batterista brasiliano che fece parte del gruppo metal dei Sepultura. Non solo, essendo tra l'altro fratello di Max Cavalera, fondò i Sepultura nel 1980. Bravo Igor o Igor, tanti auguri. E passiamo alla prossima. Sì, ma i Sepultura come sono sistemati adesso? Si sono... Non ci sono più i Cavalera, li hanno cacciati. Li hanno cacciati? Sì. Adesso, perché? No, dicevo... Ha una battuta lì. Ma non so, no. Sepultura, si sono sepolti da soli, sì, si sono eliminati. Scavati la fossa. Si sono scavati la fossa da solo. Questi poi la tagliamo. Passiamo alla prossima. 1979, giovanissimo. Andrea Cardillo, cantante italiano finalista della prima edizione di Amici di Maria De... Ma come lei non conosce il grandissimo... Lei non mi conosce il grandissimo Andrea Cardillo. No. Finalista di Amici di Maria De Filippi. Grazie alla redazione, comunque. Grazie preziosissima, fantastica. Esatto. Chiudiamo con un bel fondoschiena. Esatto. Nata il 4 settembre del 1981, si pronuncia Beyoncé. Beyoncé Knowles. Knowles. Beyoncé Knowles, cantante e attrice statunitense, e mi permetta, non so se posso osare, grande fondoschiena, perdonate l'espressione grande, un notevole lato B, se così posso come anche nei singoli esprimere, esatto. Sì, ottima scelta. Benissimo. Well, Wanna Grow Up, Tom Waits, in questo martedì, sì, martedì 4 di settembre, puntata numero 2 di Pane e Burro Rock and Roll. Chi ben comincia a metà dell'opera, ci avviciniamo a grandi passi a uno degli appuntamenti apice della nostra trasmissione radiofonica, l'appuntamento con il quiz, quello che qui siamo soliti chiamare il test attitudinale, ovvero una domanda per veri rocker che già lo sono, che anelano a diventarlo il prima possibile ascoltando Pane, Burro, Rock and Roll. Come al solito, domanda facilitata, non come i test d'ammissione per le università, con tre possibili risposte, solitamente anche abbastanza intuibile, il tutto per farvi accumulare punti per la vostra patente davvero rocker, che prossimamente avremo il piacere di consegnare a chi avrà cumulato punti abbastanza, come speriamo l'amico Sisco e come speriamo l'amico da Napoli Gianfranco Boys, che ci fa sapere che è arrivata la pioggia a Napoli, ma solo per poco, perché ritorna o sole, a pizza e o rock and roll. Grazie Gianfranco per avercelo fatto sapere. Un abbraccio anche a Graziano, Marco 68, Rip Check, alcuni degli amici che stanno continuando a scrivere al 335-100-7777. Mentre il buon Spadino mi agevola, Mr. Slow Hand Clapton, Eric Clapton, questa è Lay Down Sally. Concentrazione ragazzi, che c'è il test attitudinale, eh? Vediamo di non sbagliare, oggi è molto semplice. Ho già visto la domanda intuibile, via. There is nothing that is wrong wanting you to stay here with me. I know you've got somewhere to go, but won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? So soon. I've been trying all night long just to talk to you. Sun ain't nearly on the rise. We still got the moon and stars above. Underneath the velvet skies, love is all that matters. Won't you stay? So soon, I've been trying all night long just to talk to you. Chissà se quest'oggi potrete guadagnarvi meritati punti da accumulare per avere prossimamente, è garantito, la patente davvero rocker in tre dimensioni. Una buona occasione è quella di rispondere in maniera esatta al nostro test attitudinale, che non va in alcun modo sottovalutato, anche perché stiamo preparando le vere tessere da autentico rocker. Attenzione! E poi non fa male ogni giorno scoprirne un po' di più di questi pazzi del rock and roll. Sa di chi parliamo oggi? Di chi parliamo? Parliamo oggi di Paul David Hewson. Hewson, certo, mi pare di non conoscerlo così. No, così non lo conosce neanche loro, probabilmente. Meglio lo riconoscerete se lo chiameremo Bono Vox. Ah, Bono Vox, celebre cantante degli U2. U2. Ci sapreste dire allora da cosa deriva il soprannome Bono Vox? Prime ipotesi. Al liceo il nostro Paul David aveva, diciamolo pure, parecchio successo con le ragazze. Da qui il soprannome Bono, che nello slang di Dublino, guarda caso, ha lo stesso significato che nella lingua italiana. Che Bono! Dice, questa era l'ipotesi 1. Passiamo alla 2. Ipotesi 1, sì. Da non sottovalutare. Ipotesi 2. Bono è la storpiatura di buono, esclamazione di un pizzaiolo che portava le pizze alla band durante le prove, gliele portava appunto nella sala delle prove, il pizzaiolo che apprezzava in modo particolare la voce di Paul David e non poteva, non poteva trattenersi, diceva buono voce. Terza ipotesi. Terza ed ultima ipotesi, opzione numero 3. Bono Vox deriva dal nome di un negozio di apparecchi acustici in Dublino, negozio che si chiamava Bona Vox. È giusta la 1, è giusta la 2 o è giusta la 3? La risposta, come al solito, ve la diciamo dopo. La soluzione a tra poco. Ci sono dei posti dove ti senti subito a casa. Rock FM. Dei posti dove tutti i piaceri della vita hanno un sapore unico. Pane, burro e rock and roll. È tornato buono amore. Rock FM. Per darti un po' di festa tutti i giorni.